all'ingrabbio più di una giornata. Ci ci ci ci ci ci giulle giulle barra cocuca giuca giuca furra. Orizzontali di lure e tu, non ti lontano di te e tu. Radio Kenwood 430 S430 del microfono MC60, cambio. E sto trasmettendo con? Non ho capito, cosa hai detto? Pari due. Lo senti, Natali? Impercettibile, basso a basso. Vabbè. Dentro, fuori. Minchia, cazzo. Una cosa allucinante. Poi c'è quelli che ha sotto la mia scrivania, non posso allungare manco i dedi. Raga, Filippo. E allora, da dentro e fuori, esci, entra, dentro, esci, fuori. Poi alla fine viene c'è quelli che ha sotto la scrivania, capito? E c'è una bella rieta qua. La finestra aperta, la galleria abbassata, per il boccanobi. E non si muove. Poi dopo lo si stufa, prende e se ne va di nuovo fuori. Filippo, adesso vengo lì e ti prendo schiaffoni in quelle labbrocce che c'hai. Mia, si cocca nell'erba, si cocca nell'erba. E entra dentro con tutte le labbra, con tutta l'erba attaccata. Ogni volta devo stare a pulire a lui il cazzo. In chi via se c'ha pareggia? Asciughe a carbonazzi. Sempre burrendo, andando e torrendo. Sempre tagliato nell'erba. L'ho fatto la settimana scorsa, la Monica, 25 euro, peggio di prima. Per carità. Vabbè, Natali, ti mando un ascolto che finisco di fare queste due cosette e già ci sentiamo dopo, ok? Ok, fai. Buon proseguo. Ehi, io sono ancora un ascolto, ho già acceso la radio. Oh, Natali. Oh, dimmi qua. Com'è la radio? Buona? Non è esatto? No, va bene. Segnale è buono, ottimo. Ottimo per la truffa. E la mia la radio com'è? Che ho messo a posto quei contatti del Turner che stava facendo difetto. Buono. Sei sicuro che va bene? Non è satura, bella amplificata. Eia, non è satura, se no te l'avrei detto che era satura. Gappa, già va bene. Ottimo. L'R0 non era 145-600? Sì, perché? Perché stanno trasmettendo a 432 spiccio. 432-525, il link è quello, è a Sassari. Ah, il link è? Sì, è linkato in UHF. Capito, sta funzionando. Sì, hai visto, l'hai citato? Ehi. Già va bene. Sì. O stanno facendo delle prove? Non so, forse c'è la Fabrizia doveva andare a fare delle po' di manutenzione. Ieri dice Gianfranco doveva fare come me, tarda, se le kirbada una bibada. Lo so, ci siamo sentiti, me l'ha detto, fatto che se voleva una mano, ma dove non c'erano problemi. Già va bene, aspetta un attimo, un secondo. Buona, amplificata. Figurati, e già l'altro l'avrei già detto, la radio è di lusso. Di lusso, non è da combattimento, ma è fortissima ed è abbastanza chiara, molto chiara. Bene, bene. E io non devo essere combattimento, combattimento, non già c'ho il capo da combattimento. L'importante è questa, sia amplificata, bella, forte, già va bene. Bella, forte, non c'è problema. Come sempre. Come sempre, te l'ho detto, tu dovresti trovarti un corno di bue per provare a parlare lì, perché intanto la tua voce non cambia mai, con qualsiasi microfono e con qualsiasi radio, la timbrica è sempre quella, indipendentemente dal fatto che può essere più da combattimento oppure da QSO, piacevole e soprattutto distensivo. Per cui va benissimo così qua, non c'è problema. Ma dove hai studiato con queste parole difficili? Parla, gatta, normale, che io non ti capisco, sono ignorante, cavolo. La colpa non è mia se sei andato alle scuole serali, tu no? Perché per te che sei andato alle scuole serali? Quello perché non hai dato il retaggio ai genitori, quando ti dicevano vai a scuola, tu ti sei voluto andare la sera già da grande, ma da grande ormai la tontigine era già accumulata e non sei riuscita ad espellerla, per cui vedi un po' tu. Ma te l'immagini, con la scusa che era all'ultimo piano, lui e io ero al piano terra. Caspita, parla con queste parole, io non lo capisco qua, a questo Giulio. A te l'immagine qua, una volta che è entrato in prepotenza, oh, chi gli ha dato poi il permesso di entrare in prepotenza, lo so io qua. A te l'immagine, questo Natalino, proprio un alfa uno. Vabbè, mi scusi, Chi era quello che si chiude? Un attimo, se mi sei salamulate. Avanti qua. Ho sentito un break, non so. Gappa gappa. Avanti break, buongiorno, qua Claudio Sparviero dalla città di Sassari, Campania. Ok, Roger, 7351 la metti a Terme, qua la Calabria, il 7351, operatore Franco e la metti a Terme. Buongiorno Franco e la metti a Terme, Claudio Sparviero dalla città di Sassari, un po' qualche chilometro spostato nella campagna. Buongiorno, ben ascoltato, 5-9, segnale per te, fortissima la radio, ti mando avanti Giulio, vai Giulio per Franco. Ciao Franco, dalla Calabria, ben ascoltato, Santiago 9, 9 più 5, radio perfetta, per cui va bene così. E io ti mando avanti subito Natalino per i saluti, avanti Natalino per Franco in Calabria. Ciao Franco, salutoni dalla Sardegna, qua la città di Sassari. Natalino Alfa 1 da questa parte, arrivi molto bene da queste parti, avanti ancora a te Franco. Ok Roger, 7351 comunque a tutta la isola sarda, come si suol dire. Ok, ripeto, la metti a Terme, ok, operatore Franco, la K5 la metti a Terme. Ok, comunque grazie che mi avete fatto entrare, arrivate tutte bene, qua 9.30, ok, radio Super 5, quindi non ci sono i problemi, va bene? Io rilancio ancora l'amico Natale, per quanto ho capito, vai Natale! Cappa, anche tu arrivi molto bene da queste parti, Ti rilancio l'amico Claudio Sparviero, che lui sta un po' più distante da dove sto io, avanti Claudio! Io sono un po' più nella zona campagna, comunque abbastanza aperto, abbastanza alto per la propagazione. 5-9 più, Franco, complimenti, arrivi veramente molto molto bene. Non ci stanno problemi. Avanti ancora per te, poi andrai per Giulio per la chiusura del QSO, cambio. Riprendo io, Giulio, ti ripeto il mio nome nativo, Giulio Dollaro, sempre dalla città di Sassari, nord Sardegna. Mi hai fatto anche 9 più 10, c'è stato un momento che mi hai fatto anche 9 più 10, e la radio è 5, perfetta, non c'è problema. Avanti ancora Franco, ti hai ascoltato K, Giulio da Sassari. Ok Roger, no, Giulio, mi ascoltate, è rientrato anche l'amico qua in Sicilia, saluto a tutti, grazie del contatto, spero che ci riascoltiamo ancora. poi la metti a Terme. La Charlie Zulu, la Calabria, vi saluta. Ok, Sassari, ancora a te. Ok, ciao Franco, grazie per essere entrato a salutare. È sempre un piacere ascoltare tutto il Sud Italia. Salutoni da parte mia e ti mando avanti gli amici per il saluto finale. Avanti Natalino per Franco. Scappa, riprendo io Natalino Alfa 1 qua. 5-9 segnale per te, carissimo Franco, dalla Lamezia Terme. Salutoni, alle prossime, avanti grazie. Lamezia Terme vi saluta. Ciao Palazzo, avete parlato in due. Ciao Franco, buona domenica, buon tutto, alle prossime. Cordialità, grazie per essere entrata a salutare dalla Lamezia Terme. Buona giornata e buona domenica. Ciao ciao. Ok, ancora ti rinnovo i saluti. Ciao Franco, ci sei ancora d'ascolto. Giulio da Sassari che ti super saluta. Alle prossime, magari sempre in queste ultime condizioni come oggi. Molto bene la tua radio, soprattutto il segnale. Ok, Natalia, allora ti stavo dicendo, tu non è colpa di nessuno mi sei andata alle scuole serali, Natalia, cazzettina. Poi sentiamo un po' come la pensa Claudia anche. Ah, così, al primo piano, Natalia. No, io e Giulia eravamo al terzo piano. Sì, per quello che Giulio parla è difficile, molte volte io non lo capisco che sono ignorante, cata in materia. Coraleggio, lui è ignorante, coraleggio. Ma te ne immagini, questo Natalino, quanto oggi è... Ma un po' messo male ti sembra qua, ma lo credo però, perché ieri ho fatto il vaccino e sono in perfetta forma, per cui adesso Natalino che l'ha fatto almeno 10 giorni prima di me è così in basso e scesa, no, assolutamente, non ci posso credere, vai Claudio. Vai che sta scherzando lui che già è colto, capito, è colto, che lui lavorava in campagna, quindi ce l'ha, capito. Già lo sa Giulio che sto scherzando. Beh. E già lo sa, sì, e come no. E so che se fai anche le torte, solo che non ne hai mai fatto una per il gruppo CB. Se te le hai mangiate tutte da solo le torte tu. Ma quando mai, in tutti quegli anni che hai lavorato in pasticceria, non hai mai pensato di fare una torta grande, almeno per tutti i CB? Nulla. Sempre sei stato egoista. Magari non c'era tempo, capito? Non ci ho pensato, se no avrei anche fatta. Mi chiedo scusa per il grave disguido. Almeno ai compleanni dovevi fare una torta, tutte le volte che qualche CB compiva gli anni tu dovevi fare una torta, perché eri tu il pasticcere, non ero io, non gliela potevo fare di legno io la torta, no, assolutamente no, io al massimo ti potevo fare i dischi per poterla fare a tipo grattacielo, come facevo una volta la buon'anima di Fausto, che gli facevo per le torte nuziali, veniva e incominciavo da sotto un disco grande per dire, non so, un metro di diametro, l'altro più piccolino da 80 centimetri, l'altro ancora più piccolino da 60 e così via, sino all'ultimo disco che era intorno ai 40 centimetri più o meno. E lui faceva la torta a più piani, per cui, vedi bene, lui sì che era generoso. Avanti qua. Era generoso, il bravo buco era un suco. Anche come pasticcere era straordinario. Vabbè, ogni tanto mi veniva e mi portava un vassoietto di dolcini, di cose, ogni tanto. Perché magari per cercare di sdebitarsi, perché io tagliavo sempre i cerchi e le varie cose che le servivano per fare le torte, ma siccome siamo sempre stati amici da sempre, da quando siamo nati, per cui io le facevo volentieri, non c'era problema, figurati. E lui allora, sai, per generosità veniva di tanto in tanto e mi portava una piccola porzione di dolcini, perché sapeva che io ero goloso, per cui no, non c'era problema. Avanti Natalia. Io ho preso i pasticcini a mia moglie, proprio da lui. Sono andato stamattina e li ho presi. Un po' di pasticcini. dici? Ui, ui, ui, e io non ne posso mangiare. Vabbè, pazienza, già li hai mangiati quando eri più giovane, dai, non ti preoccupare. Adesso non è così importante, interessante vedere un pochino che è meglio. Avanti, Claudio. Vabbè, anche i dolcini almeno il fine settimana, la domenica ci vogliono, se no è un casino, come fai? Almeno il gelatino, la sera anche dopo pranzo, il gelatino con questo caldo per rinfrescarsi ci vuole, solo che lui non le vuole mangiare, ma ci sono i gelati anche che vanno bene per il tuo problema, Natalia, mi sembra, no? Tu ci stava dicendo, Gianni, mi sa che stasera la porto a mia moglie a prendersi il gelato da qualche parte. E certo che sì, ma dimmi una cosa, andiamo al corso dove c'è il corso, cioè l'Upi Vecchio, il primissimo Upi Vecchio, una volta c'era la gelateria lì al corso, di fronte, ancora c'è, non niente ne sai. Ah, non lo so, so che c'è a Corso Vico, lì, ce n'è più di una di gelateria, ma stasera andrò a Platamona lì. Dove stava dicendo Gianni che dice che ci sono, sino che sono il biglio normale, cosa vuoi ti dica? Oh, mi accompagno un attimo. Ok, qua. Sì, penso che ci sia però il gelato. Ma l'avevo sentito anche da Taria, adesso da un po' di tempo fa, più di un'ora fa, che in via Roma facciamo le gelate addirittura allo Zemino, ma davvero sarà? Ah, non ne so più. E così abbiamo inteso, dicevano che andavano molto anche per i sassarisi, che ne vendeva abbastanza. E lì a Roma c'era una gelateria, c'era un fiera, che facevano il gelato allo Zemino, non sa ne più cosa inventare. No? Io infatti, io via lo Zemino gli ammerbongo in graviglia, la giuna gana, mica, da di solo un anno che non ne mangio. Ma già lo vendono, sì, qui dove, nel negozio dove facciamo la spesa noi, sì, all'MD di Ripunti, lo vendono, lo Zemino, le frastaglie, una volta non potevano vendere, ma adesso c'è libera vendita. Già lo so, solo che dove mi metto a rostirlo, qua no, in carriera mi bordo. E tu fai qualche basiamo all'antica, io mi ricordo, se sei vecchio, Natalia, tu forse non l'hai conosciuto, ma quando ero ragazzino io, che io da Sassari Vecchio sono andato via, che avevo 11 anni, una cosa del genere, no? E la gente si armava di braccello lì davanti alla porta e ne vedi il fumo, tu passavi in tutti i canti di strada di Sassari, tutta piena di fumo era, oia, arrossite di ogni genere. Già lo so. Mi sentita lei, a mia moglie. Già lo so dei braccieri e queste cose, ma io ne ho vergogna, mi vengo in carriera a farmi l'udinino. Sei stato in campagna, sì che mi l'avevo fatto. Ne avremmo fatto una con Gianni in campagna, mi disseminata, favolosa. Vabbè, in campagna sì, ciao, cos'è? Sì, in campagna sì, vabbè, quello già è facile. Ma veramente, prima si facevano queste cose. Io me la metto benissimo, ero ragazzino. Io abitavo lì in via Infermeria San Pietro da bambino, per cui fino all'età di 11 anni ero lì. Poi ci siamo trasferiti dove abitava mamma, chiaramente, ma vittimo sul stesso del 53, non è oggi, no, è ieri, non è oggi. Fate il conto, 1953, quanti anni sono passati? 60 anni, più o meno. Manco nato io ero, perché io sono nato nel 57, fatti il conto, 4 anni dopo sono nato io. È ancora più antica la storia. Appunto, per quello che ti ho detto, perché tu non l'hai potuto conoscere, ti ho detto che io ero ragazzino quando si facevano queste cose, tu non potevi, avrebbe conosciuto assolutamente, perché poi con l'andare del tempo, passare degli anni, è cambiato tutto e no. Prima era tutta la stessa cosa. Tu non vai obrato mai allo Giro d'Italia. Il Giro d'Italia era un disegno per terra, tutto a curva e con i piattini delle cose, delle bottiglie schiacciate e facevamo il Giro d'Italia. Forse tu non l'hai conosciuto nemmeno quel gioco, ma si faceva soprattutto di vizio, perché le stradine erano quelle, il traffico non ce n'era, eccetera, eccetera, andava bene. E ci divertivamo così da bambini. Mi intesera, mia moglie di me, e se no via Torretonda, mi. Ero grivia, poi via Torretonda, se la fate lo conto, a un tiro di schioppo da Gualdesi, si può immaginare, Gualdesi era il centro capitale delle seminate e dei divertimenti, ero grivia, Gualdesi, l'università, no, era lì, via Morea, eccetera, perché tutte quelle stradine, lui era il fulcro proprio della vita dei sassaresi. Te credo. Ho trovato Gianni Olivieri stamattina. Che... E Gianni Olivieri hai trovato? Io sono da sacco di tempo che sto vedendo. E vabbè, prima lo vedevo perché passava lì in via Pascoli sempre. E lo so, il grande meccanico della moto, Gianni Olivieri, più grande di me, di età più grande di me, almeno un paio d'anni più grande di me. Ci conosciamo molto molto bene da bambini e abitavamo vicino anche di casa, ti puoi immaginare, parlando di quando io ero a casa di mamma, no? Abitavamo vicini di casa, per cui non c'è problema. Giovanni Rivieri, Secchi, il radiotecnico che era vicino a lui, se lo ricorderai o non è tagliato. Avassi per ti chiamare Gianni Olivares, ma reformami. Zillo. Sì, Gianni Olivares come nome artistico, no? Perché lui ha fatto sempre cantante, ha fatto. Tu pensa che aveva la. E c'è penso che ce l'abbia ancora. La saletta di registrazione è accanto a quella che c'aveva mio fratello, praticamente lì in Corso Trinità. Corso Trinità, praticamente scendendo per il ponte, dai. Sì, Gianni Olivares, sì, il nome d'arte quello lì era. Io l'ho conosciuto, l'ho visto anche tante volte quando cantava alle prove, eccetera. Perché lui, ripeto, la saletta uguale a quella di mio fratello, uno a fianco all'altro. Proprio lì. E deve De Monzi, via in Corso Trinità, lì vicino. E lui ci va spesso lì. Va anche a trovare a Franco Bernardinelli. A quello gli ho dato già una chitarra mia elettrica, che gliel'ho data io. L'altro giorno si è avvicinato, ha detto vieni che ti faccio vedere la tua chitarra, mi ha detto Franco. Ok, sì, beh certo. Bernardinelli, quello dei mobili, stai parlando di quello. Ehi, sviluppa dei suonelli, chi sulla chitarra? Giulio, che ben ricordi quando andavo da Zia Bastiana con i miei cugini? E poi, dimmi. Dove andavi? Non ho capito perché c'era uno da Catania che stava chiamando. Andavo da Zia Bastiana, la mamma di Giuseppino Podiga, Speranza Podiga. La moglie, Zio Giovannino, il padre, eccetera, eccetera, il padre di Speranza e di Coso. Vai non lavora che non me la metto più manco, vabbè, fratello di Michele il Grande, quello alto, poi Michele nipote, cioè zio di Michele il Piccolo, quel pescivendolo, poi tutti gli altri, eccetera, eccetera. Per cui Maurizio, le crepugine, sì. Ma tu lo stesso cognome fai, con c'è? No, allora io faccio Sassu, una sorella di mia nonna aveva sposato uno di Pudiche, Giuseppe Pudiche, macellaio. Ho capito, sì. Sì, ho capito. Sassu, sì, non mi è nuovo questo nome. Dopo mi informo per rinfrescarmi un po' la memoria, perché è un cognome che io sento spesso, poi adesso non ti posso dire come faccio a saperlo, come faccio a sentirlo spesso, non te lo posso dire per questo. Ora, Catania, mi ascolti? Avanti per la Sardegna, Sassari che ti ascolta. No, non mi intendi più, non c'è più preparazione. Sassu. tu conosci una persona che si chiama Silvia, così dimmi sì o no. Non ha sentito che è al telefono. No, siccome stavo riflettendo un attimino per questo cognome, lo che mi hai detto, no? Ho detto, se tu per caso conosci una persona che si chiama Tilde. E adesso quando viene glielo dico. Ho capito, vabbè dai, vabbè, non ti posso spiegare di più, in frequenza non ti posso spiegare di più. Ok, va bene, avanti Natalia. E capa là, io rimango in ascolto che non sto facendo nessun incontro. Ok, va bene dai. Comunque siamo tutti lì nella stessa cerchia, Natalia. Cosa dire, andare a quest'ora, infatti è l'ora tua questa, è l'ora del trattamento che devi farti tutti i giorni. Posso andare? Non ho capito, Natalia. Avanti? Eccomi qua, Dai, però io non posso rimanere molto perché c'ho anche niente a pranzo, devo iniziare a organizzare la graticola. Me l'ho già immaginato io, che tu dovevi adesso scaldare la graticola, te lo credo. E fai bene, lì te ne puoi fare fumo, quanto ti pare ti piace. Nessuno ti può dire niente, anzi più ne fai meglio è. No, sono rinato, no, non c'è un problema. Sì, adesso mi organizzo, ho già tolto il frigo, adesso la separo. E poi inizio a farmi il fuoco, perché sennò poi non scende il carbone, dai. Grazie ai due chiacchiere, Giulio, grazie al controllo, quindi lasciamo tutto così, il galaxy sta andando bene, ci aggiorniamo stasera, già sono in radio intanto, ok? Ok, qua, alla grande, 9 più 10 pieno, anzi un puntino, ma proprio un puntino in più del 9 più 10, perché va più che bene, la radio è ottima, non c'è problema. Grazie a te della chiacchierata, qua, ci sentiamo stasera, dai, se coincide così vedremo di cambiare quattro chiacchiere, dai. Avanti Natalia, ci sia con l'ascolto per salutare Claudio e dopodiché anch'io stacco e scendo dalla parte dove si mangiucchia. Ciao Cam, buon proseguo e buona arrostita alla faccia mia. Io rimango in ascolto, buon proseguo a tutti, anche a Giulio, buon pranzo, buona domenica. Ciao Tatari, grazie, dai. Io che è sempre pieno Grande Caraibi, ma sono contento lo stesso, non sono solo. C'è gente di casa. Ciao a tutti, buona domenica, buon pranzo, ci aggiorniamo stasera. Ciao. Avanti Messina per la città di Sassa di Sardegna. E beh certo, se ti ho risposto vuol dire che ti sta copiando. Ciao Antonio, se non erro, hai detto il tuo nominativo. Giulio da Sassari. Sassari città, avanti. Ok Antonio, il capo per te. Santiago 8 Radio 5. Santiago 8 Radio 5. La radio è un po' amplificata, però già si capisce abbastanza bene quello che dici. Naturalmente c'è anche un po' di quasi bici, ogni tanto in tanto il segnale si abbassa, o comunque fino a questo momento mi hai fatto punta di Santiago 8. Avanti ancora Antonio Cappa. Ok Antonio, sì, c'è QSB, c'è QSB, per cui non ci possiamo fare niente. La preparazione c'è, però non è delle migliori. Però non ti ascolto ugualmente, non c'è problema. Avanti ancora Antonio per Messina, mi sembra che hai detto, confermi? Ok Antonio, io ti rilancio il microfono, fa entrare pure l'altro amico, io non lo sento l'altro amico della Sardegna, evidentemente appartiene alla parte del sud, io sono a nord della Sardegna. Avanti Antonio, comunque ti saluto e ti ringrazio per il contatto e alle prossime. Chiamo pure l'altro amico della Sardegna, ciao.